Sono molto diversi, ma a mio giudizio c'è un tratto comune triste e inquietante. Il tratto comune è la ricerca di gruppi di solidarietà dati, cioè di fronte alla difficoltà crescente, la fase più acuta dell'ultima crisi economica è superata, ma restano le difficoltà di fronte alla globalizzazione, resta un mondo inaccettabile, resta una vita in Europa e in Italia non facile, in cui tutti i parametri sui quali avevamo misurato la qualità della nostra vita, il welfare, le pensioni, l'assistenza sanitaria, le aspettative positive di futuro da parte dei ragazzi sono tutte saltate. E di fronte a questa incertezza e insoddisfazione c'è una debolezza della politica, una debolezza della compagine dello Stato nazionale, che sono usciti dal Novecento entrambi completamente demoliti. Lo Stato nazionale ha sempre meno senso, non è più in grado di governare l'economia, non è più in grado di governare il benessere dei cittadini. Dall'altra parte la politica stessa non è più in grado di farsi interprete di questa necessità, si limita a governare l'esistente. E dunque di fronte a tutte queste incertezze si cercano nuovi luoghi di rappresentanza, nuovi luoghi nei quali concentrare queste aspettative. E la risposta più semplice è la risposta di un nazionalismo ridotto, rimpicciolito, quello di piccole patrie che diventano le uniche patrie possibili nella rappresentazione che ne viene data. Piccole patrie che, essendo piccole, avendo un forte denominatore comune, sono più solide. Qual è il forte denominatore comune? È un'invenzione a volte. A volte si attacca a tradizioni realmente esistenti. È chiaro che la Padania di Bossi degli anni 90 era un'invenzione a tavolino. È chiaro che la Catalogna esiste, ha una forte identità linguistica, culturale, ha sempre avuto per secoli una propria immagine di sé. A volte quindi esistono realmente, a volte sono costruite, ma è la ricerca di orizzonti limitati nei quali identificarsi fortemente. Come? Identificarsi come popolo, un popolo che è definito perché ha qualcosa in comune. In Catalogna la lingua, che è completamente diversa da quella castigliana adottata dalla Spagna, in Veneto la imprenditoria diffusa, familiare, il forte legame tra questa imprenditoria e il territorio, la religione cattolica, l'essere gruppi chiusi e riconoscibili nei casi peggiori, quindi anche con forti connotazioni xenofobe e razziste, ma sempre la definizione di un popolo che al proprio interno si suppone come conflittuale, come privo di conflitti. I conflitti non ci sono più, c'è un tutto indistinto che si riconosce in quanto nazione e che non vivrebbe più i drammi dei conflitti se potesse essere separato da tutti gli altri, o meglio, i conflitti futuri sarebbero conflitti tra questo popolo unito e nemici esterni e ostacoli esterni e difficoltà esterne. Questa idea è pericolosissima. È triste da una parte perché è la presa d'atto che la nostra democrazia non funziona, intendo dire la democrazia europea, la democrazia occidentale, dall'altra parte è inquietante perché l'immagine di della società che se ne ricava è l'immagine di una società costruita attorno a una nazione nella quale esiste un popolo indistinto e un vertice che lo rappresenta, in cui i meccanismi della democrazia non ci sono più. Ciò che inquieta è che questa idea di nazione come soggetto principe nella quale riconoscersi senza conflitti è inquietante perché è l'idea che è stata adottata dopo la prima guerra mondiale, è la proposta fascista che in tutta Europa prevale. Ora non voglio dire che gli indipendentismi, che gli autonomismi di oggi sono fascismo. Voglio dire però che noi abbiamo una esperienza nel nostro passato nella quale abbiamo vissuto la scelta della rassicurante nazione chiusa contrapposta a una nazione aperta e conflittuale. Noi abbiamo imparato attraverso la durissima, tremenda storia del Novecento, attraverso i fascismi, attraverso la Seconda Guerra Mondiale, attraverso le resistenze, attraverso la costruzione delle nuove democrazie dopo la Seconda Guerra Mondiale, noi abbiamo capito cos'era quel nazionalismo e l'abbiamo superato. La nazione deve essere aperta. Nella nazione devono vivere liberamente i conflitti, perché tanto nella società ci sono. E allora ci vogliono gruppi di interesse, ci vogliono classi, ci vogliono soggetti diversi e ci vuole la loro rappresentanza attraverso i quali si manifestano, si esprimono, si scontrano anche, in termini democratici si intende, in termini possibilmente non violenti, ma vivono la loro pienezza. Non si può fare finta che non esista un conflitto del lavoro tra tra datori di lavoro e lavoratori soltanto perché ci chiudiamo in una patria più piccola nella quale ci sentiamo uniti come nazione, perché ci sarà sempre qualcuno che impone quella idea di nazione al di sopra di conflitti che a quel punto non avrebbero più modo di esprimersi, e questa sarebbe una compressione della libertà, una compressione della democrazia, una compressione delle possibilità di crescita sociale. Questo è, secondo me, il nodo che sta sotto a tutto questo. Questa è la pericolosità. Dopodiché c'è anche, appunto, una grande tristezza, perché questo vuol dire rinunciare alla politica, vuol dire rinunciare alla costruzione democratica, vuol dire chiudersi in illusioni fantastiche. I catalani pensano di poter essere liberi di aderire dopo autonomamente alla comunità europea, come se questo fosse possibile in due minuti. I veneti pensano di poter essere più liberi e più ricchi se si separano dall'Italia, come se quello potesse essere un mondo a parte, come se quel mondo non avesse al proprio interno i propri conflitti, le proprie necessità, e come se non ricavasse benefici dall'appartenenza a uno Stato nazionale più ampio, che se costa in termini di esazione fiscale restituisce moltissimo in termini di ancora costruzione statuale. E ancora tutto questo è triste perché riguarda in tutti questi casi regioni o aree regionali ricche. Il Veneto è una delle regioni più ricche d'Italia, la Lombardia è la regione più ricca d'Italia, la Catalogna è la regione più ricca della Spagna, e dunque c'è in questo anche un grande egoismo. Di fronte alla difficoltà di risolvere i problemi insieme, si decide che con il proprio bottino, che con il proprio privilegio ci si distacca. Anche questo è veramente molto, molto poco gradevole da vedere. La scomparsa allora definitiva di una certa forma di universalismo, diciamo, nei valori della sinistra, insomma, è un'idea definitivamente tramontata? Ma l'universalismo è tramontato con la fine del moderno. L'universalismo è tramontato con gli anni 80 del secolo scorso, anticipa la globalizzazione e poi l'accompagna. L'idea che esistano delle idee universali, dei principi universali, dei valori universali che devono affermarsi, purtroppo è scomparsa, è sconfitta. Siamo in una fase storica nella quale questi argomenti sono debolissimi e quindi lasciano il campo naturalmente a questo tipo di risposte. La cosa che colpisce, per esempio guardando la Catalogna, è che tra gli indipendentisti c'è destra, centro e sinistra. Una volta la sinistra sarebbe stata universalista e non sarebbe caduta in questa sciocca trappola di un nazionalismo risentito e egoista. Certamente questo è uno dei grandi temi. La fine delle idee universali, la fine dell'universalismo del pensiero occidentale e in particolare all'interno di questo del pensiero della sinistra, è una delle grandi questioni aperte. Questi nazionalismi di chiusura non danno nessuna risposta ai veri problemi attuali. Dal punto di vista sociale, per esempio, non rispondono affatto all'ineguaglianza. Promettono ai propri cittadini di avere una nazione più ricca e quindi all'interno della quale probabilmente tutti staranno un po' meglio di quanto non già stanno. Ma non si parla di uguaglianza, non si parla di costruzione di un nuovo patto di cittadinanza, non si parla di partecipazione alla cosa pubblica più condivisa e meglio attuata. Tutto questo non c'è.